Incontri di Gianfranco Fabi. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco Romagna e in odor di Toscana. Con le note e la voce di Francesco Guccini, con Bologna iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Fabrizio Ziribotti. Buonasera. Fabrizio Ziribotti, professore di macroeconomia all'Università di Zurigo, poi vedremo anche qual è stata la sua carriera per arrivare all'Università di Zurigo, ma partiamo da Bologna. Perché Bologna? Beh, io sono un po' come Guccini, nel senso che io sono un modenese trapiantato a Bologna fin da una tenera età, da 6 anni, e poi dove sono stato fino al 1990. Ah, quindi è un po' la mia città di adozione. Poi dal 1990 in poi non sono più tornato in Italia. Quindi hai iniziato a Bologna, hai fatto l'università a Bologna? Ho fatto l'università, la scuola superiore. E quindi si è specializzato in economia. Perché l'economia e non medicina o aviazione? Ma io intanto feci il liceo classico, come molti studenti venivano mandati in questa gloriosa direzione, e poi mi appassionai alla storia e alla filosofia, quindi decisi di fare storie contemporanee con i miei genitori, che erano perplessi, tipico cammino verso la disoccupazione. Certo. Dopo un paio d'anni cominciai a preoccuparmi che magari avevano un po' di ragione, allora mi spostai più sull'economia, anche perché mi interessavano gli aspetti economici della storia. E da Bologna poi ha deciso di emigrare, come mai? Beh, quella è stata una decisione un po' naturale, perché i corsi di dottorato a quel tempo in Italia non erano molto strutturati e tutti mi dicevano che era un buon investimento andare all'estero, quindi studiai alla London School of Economics. Quindi il primo passo è stato la London School of Economics, e in questi ultimi 20 anni, possiamo dire così, da allora? Diciamo pure 25. 25 anni, quali sono state le altre tappe che ha seguito? Sì, dopo aver finito a Londra sono stato a Barcellona, alla Università Pompeu Fabra, da lì mi sono spostato a Stoccolma, poi da Stoccolma sono andato in cattedra a Stoccolma e ho vinto poi una cattedra ancora a Londra, University College, sono rimasto un paio d'anni, sono rientrato poi a Stoccolma, ho deciso che sì, dal punto di vista familiare ci piaceva di più. Perché nel frattempo, pur muovendosi, ha trovato moglie in Spagna, no? No, la moglie l'ho trovata in Inghilterra. È una spagnola. È una spagnola. Quindi ha trovato voi, ha messo su famiglia, però ha continuato a girare. Abbiamo continuato a girare e ci siamo divertiti in questo senso, perché poi si scoprono molte cose che stanno sempre nello stesso posto, uno alla fine si annoia. Ecco, e quindi poi è arrivato a Zurigo da quanto tempo? Dal 2006 a Zurigo, dove insegna appunto all'Università di Zurigo. Ecco, ha quindi passato molte università, quali dal punto di vista proprio universitario, sia dal punto di vista degli allievi, sia dal punto di vista dei docenti, quale ricorda e pensa che sia l'università migliore? Quali sono le differenze tra queste università, mettendoci anche l'università italiana, in cui lei è stato solo allievo, però ha conosciuto da vicino anche l'università italiana e la conosce molto bene, peraltro? Sì, io poi vado spesso a Bologna e do un'ottima opinione di chi lavora e insegna a Bologna, anche se c'è un problema, come dire, di infrastruttura, di risorse, che è assolutamente più limitato di quello di cui dispongo in Svizzera, ad esempio. Quindi questa è la grande differenza rispetto alle università italiane. Tra quelle dove sono stato, ma dal punto di vista degli studenti, svizzeri sono molto bravi. Dal punto di vista dei docenti, ricordo con particolare intensità l'esperienza svedese, dove mi sono trovato davvero bene, e anche quella di Londra. Se le dicessero scegliene una ma rimani. Ma ci sono molte considerazioni, ci sono anche diversi range salariali, per cui la Svizzera paga meglio della Svezia, ma diciamo che a parità di salario tornerei in Svezia. In Svezia è un paese dove si vive bene, dove c'è anche un ambiente sociale positivo in cui c'è insieme uguaglianza ma anche capacità appunto di valorizzare il merito? Sì. C'è molta uguaglianza e c'è una certa capacità di valorizzare il merito. Nell'istituzione dove io ero, questa era più forte che nelle istituzioni più standard della Svezia. Se vogliamo, quando pensavo all'educazione di mia figlia, trovavo che l'aspetto di uguaglianza era un pochino troppo forte rispetto a quello del merito. Però è una società che apprezzo molto, apprezzo anche socialmente l'interesse della gente verso uno straniero, è molto, perché non eravamo tanti comunque, e quindi mi sentivo veramente trattato molto bene. In Svizzera è diverso, siamo tanti, è una comunità grande quella di noi. Cioè forse c'è più competizione in Svizzera? Sì, oddio, nell'università direi che non è tanto l'aspetto, non è l'aspetto più dominante, ma diciamo che la Svizzera dal punto di vista accademico è molto dominata anche dall'influenza della Germania e dell'Austria, e quindi nel bene e nel male. Ecco, lei è stato anche nelle scorse settimane, inizio di giugno, al Festival dell'Economia di Trento, in cui ha tenuto un incontro dal titolo Genitori alla prova, stili educativi e conseguenze sociali. È un po' una specializzazione che ha deciso di prendere, questa di approfondire il rapporto tra la famiglia, l'educazione e l'economia, poi in fondo. Ma è parte di un interesse per i fenomeni storici e sociali che ritorna al tempo dell'università. Io avevo cominciato facendo storia contemporanea, come dicevo, e ho mantenuto comunque questo interesse a mettere insieme storia ed economia. Ecco, stili educativi, sono molto diversi gli stili educativi italiani, svedesi, svizzeri, inglesi? Direi di sì, soprattutto quelli svedesi sono molto estremi, cioè l'atteggiamento verso i figli è di una estrema liberalità, poca pressione, poco stress. Per un italiano un po' troppo, chissà, forse. Però tra l'Italia e la Svizzera abbastanza simili, forse. Sono più vicini gli svizzeri che non... anche perché forse la Svizzera è una città molto variegata. Sì. Ci sono anche molti italiani probabilmente che studiano in Svizzera, famiglie di emigrati in cui c'è maggiore integrazione forse in questo paese. Sì, la cultura di Zurigo soprattutto è molto influenzata dalla componente italiana. Non è la componente più importante, ma è una componente importante. Quindi riescono gli italiani a essere presenti, anche a condizionare un po' gli stili di vita di un paese come la Svizzera. Sì, poi ovviamente tutto diventa svizzero in Svizzera, per cui tutto è ordinato, tutto è... Sì, sì. Ecco, ma in questa prospettiva, guardando appunto a quello che lei ha approfondito in termini di stili educativi, quali sono gli due elementi principali, due o tre elementi principali in cui dividerebbe lo stile educativo di una famiglia rispetto a un'altra? Ma alcune famiglie lasciano grandi margini di libertà ai figli, chiamiamo questo stile permissivo, no? E altri cercano invece di influenzare e di motivare i figli in modo anche molto intrusivo, chiamiamo questo stile autorevole, con punte anche di autoritarismo in alcuni casi. La Svizzera è in qualche modo una via di mezzo, esatto. La Svezia invece è estrema dal punto di vista di essere molto liberale e molto permissiva. Ecco, ma si può dare un giudizio di merito? Che cosa è meglio fare? Che cosa si può consigliare a una famiglia? È meglio essere permissivi quando ci vuole, oppure è meglio essere autoritari quando è necessario? Ma stiamo scrivendo un libro e ci asteniamo un po' da questo tipo di intervento. Poi, se le posso dire, io personalmente sono nella categoria autorevole, sto un sacco di tempo con mia figlia, cerco di farla ragionare su quelli che sono i valori importanti, però questo non è il contributo di scienziato, questo è il contributo di padre. Come scienziato cerchiamo di capire più che di raccomandare. Anche perché c'è una certa differenza tra autorità e autorevolezza. Assolutamente. Quindi tra l'imposizione e la capacità di far scegliere da soli figli, ma sulla base di indicazioni molto precise. Sì, l'autorevolezza significa guidare, e guidare in modo intelligente. Ecco, su questo fronte vorrei approfondire appunto questo tema, il tema appunto della capacità delle famiglie anche di influenzare quella che peraltro è stato anche il tema del Festival dell'Economia, cioè la crescita sociale, la possibilità delle famiglie di portare appunto a una maggiore crescita complessiva, anche insieme a una maggiore eguaglianza. Di questi temi parleremo ancora tra un attimo, ci fermiamo, ma restate con noi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Incontri. Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte. Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita. Riprendiamo il nostro incontro con Fabrizio Zilibotti, che è con noi questa sera. Fabrizio Zilibotti è docente di macroeconomia all'Università di Zurigo. Ci ha spiegato nella prima parte del nostro programma un po' l'itinerario che ha compiuto, studente a Bologna, poi nelle università, poi professore nelle università di Londra, di Barcellona, di Stoccolma e infine a Zurigo, e ci ha spiegato anche la scelta di specializzarsi, pur seguendo anche tante altre cose, nel tema della genitorialità, dell'educazione, di come le famiglie portano avanti l'educazione dei figli. Di questo peraltro Zilibotti ha parlato al Festival dell'Economia di Trento, un festival dedicato, che è stato dedicato appunto all'inizio di giugno nella sua decima edizione alla mobilità sociale. Allora, dicevamo di questi due stili essenzialmente in cui si dividono, pur con tante sfaccettature, gli stili educativi appunto delle famiglie: l'autoritarismo da una parte, che è un po' quello italiano, un modello latino, e il permissivismo, che invece è un modello più nordico, più svedese. Ovviamente poi ci sono tanti elementi che possono fare da contorno, tante situazioni diverse, però ecco, è possibile, professor Zilibotti, osservare scientificamente questi temi? Non sono temi che appartengono più alla pedagogia o alla sociologia. Un economista come entra in questi temi? Ma intanto abbiamo un nostro modo di ragionare che si basa sul fatto che le persone rispondono agli incentivi, per cui in società diverse i genitori attuano in modo diverso. In una società più diseguale c'è più un tentativo di spingere di più alla motivazione, al successo individuale. In una società più competitiva, come ad esempio la Cina negli Stati Uniti, questo è particolarmente accentuato. In una società meno diseguale, come quella scandinava, viene lasciata più libertà, che poi vuol dire anche la capacità di sviluppare più indipendenza, più valore dell'immaginazione, e lo vediamo anche nelle inchieste che vengono condotte a livello internazionale. Ad esempio c'è questo studio fatto su dati della World Value Survey che svolgiamo, dove vediamo che la disuguaglianza di reddito è una delle determinanti principali della prevalenza di uno e l'altro stile di genitorialità. Come dicevo, le società meno diseguali tendono ad enfatizzare di più i valori dell'indipendenza o dell'immaginazione, mentre quelle più diseguali hanno più accento sul lavorare duro, sull'etica del lavoro e così via. Ecco, ma è una disuguaglianza solo come livello, diciamo, di arrivo, o c'è questa disuguaglianza anche nei punti di partenza? Il liberalismo, uno dei suoi punti di forza, dire che dovrebbero essere tutti uguali, ma nei punti di partenza poi ognuno deve fare la sua strada. Se riesce ad avere di più, se riesce a fare più carriera, tanto meglio. Se invece una persona non riesce, diventa un po' una selezione naturale il fatto di doversi limitare, doversi fermare in un certo senso, pur garantendo, la società dovrebbe garantire i livelli essenziali, non solo di salute, ma proprio di civiltà, di convivenza. Ma ecco, in questa prospettiva bisogna puntare anche molto sui punti di partenza. C'è ancora molta disuguaglianza nella società come quella italiana nei punti di partenza? Ma io credo di sì, c'è disuguaglianza tra chi nasce dal nord, dal sud, chi nasce in un ambiente sociale nell'altro. Poi in una società come quella italiana, dove il concetto di competizione viene distorto dall'importanza dei contatti personali, della rete, di network, questo diventa anche anche degli aspetti più negativi. Ma anche se penso agli Stati Uniti, dove c'è un sistema di scuola privata che domina su una scuola pubblica, i punti di partenza sono anche molto diversi. C'è questo mito che negli Stati Uniti tutto quello buono viene a galla, però non è sempre così. Anzi, però un po' di concorrenza anche tra le scuole può essere utile, un po' di concorrenza tra le diverse scuole per non appiattire tutto e non portare l'uguaglianza a fare tutti che siano a livello più basso. Sì, io sono per la concorrenza, ma in Svizzera la concorrenza è anche tra scuole pubbliche, per cui credo che anche adesso si parla molto in questi giorni della riforma della scuola italiana. Io credo che il governo ha ragione quando cerca di promuovere una competizione tra scuole pubbliche. Sono meno dell'idea di passare a un sistema basato su scuole private, perché sappiamo che nel momento in cui si svuotano le scuole pubbliche degli studenti con più talento, poi queste scuole diventano una specie di servizio sociale per i meno abbienti. Si basta che le scuole pubbliche funzionino e non siano le scuole ipergarantiste, per cui no, garantiscono anche i professori che non sanno insegnare. Assolutamente no, che... no, su questo io credo che ci deve essere molta più decentralizzazione e anche meno certezza del posto di lavoro. Il posto di lavoro non deve essere più un'icona che non si può toccare, e anche più premi a chi fa bene. Cioè l'insegnante, ci sono molti insegnanti, io credo, che sono veramente molto impegnati nella scuola per farla funzionare, e lo devono fare solo per motivazione personale, perché gli incentivi monetari sono quasi inesistenti. Ecco, lei ha accennato anche alla Cina, ha avuto un'esperienza anche di studio in Cina. È molto diversa la realtà sociale, familiare cinese rispetto alla nostra, realtà europea? I genitori cinesi spingono in modo molto più aggressivo verso il successo e la competizione esasperata. Questo ha un aspetto positivo, che c'è questo desiderio di riuscire, desiderio anche di promozione sociale, anche per questo comunque è una società in cui quasi tutti erano poveri, per cui c'è ancora molta mobilità sociale al suo interno. L'altro aspetto è che c'è forse un'esasperazione di questa dimensione, che fa sì che gli studenti vengano quasi programmati per riuscire bene negli esami, ma non è sempre... L'esame non è tutto, l'esame è un segnale, in Cina tende a diventare un po' un valore in sé. C'è un valore, l'apprendimento in quanto tale, che supera anche la capacità poi di muoversi all'interno della realtà, e la capacità di muoversi che deve essere costituita anche da una creatività che non si apprende, si bisogna esercitare la creatività, forse è qualcosa a cui bisogna abituare i giovani. Sì, anche perché se tutto il modello educativo è basato sulla ripetizione e l'apprendimento di concetti, questo non lascia più spazio al ragionamento individuale. Questo è il limite, diciamo, dell'approccio cinese. Se voglio ovviamente esagerare, ci sono molte più sfaccettature, ci sono anche ci sono cinesi molto creativi. Io ho lavorato con ottimi studenti cinesi, però questo è il primo elemento che devo vincere, quello, lo studente cinese che si aspetta dal maestro di che cosa deve fare, deve decidere lui che cosa deve fare, e io lo devo convincere. Io, quando ho studenti di dottorato cinese, ho questo problema. La prima cosa che devo convincere, tu devi scrivere la tesi, e la devi scrivere su qualcosa che ti interessa e che sia utile per te. Ecco, Fabrizio Zilibotti, andando un po' al di là di questi temi della famiglia, lei ha vinto negli anni scorsi anche un premio mondiale per i giovani economisti, tra l'altro uno dei pochissimi italiani che ha vinto un premio di questo tipo. In Italia l'economia è vista come qualcosa, quasi un male necessario in un certo senso. Gli economisti sono visti un po' male, e anche gli economisti italiani, e ne abbiamo avuti anche in passato di economisti molto, molto bravi, però nell'ambiente italiano rischiano di passare in secondo piano. Questa è un po' anche la sua esperienza, che ha cercato all'estero una sua espressione. Come mai l'Italia come paese ha così una certa ostilità verso l'economia, verso gli economisti? Ma due cose. Prima di tutto, questo problema di percezione rispetto agli economisti non c'è solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. Poi da una parte ci si accusa di non capire niente, dall'altra si pretende che diventiamo dei profeti. Sì, certo. In Italia, l'Italia ha prodotto ottimi economisti, molti lavorano negli Stati Uniti, lavorano all'estero, e poi abbiamo un'ottima università. L'Università Bocconi di Milano, per esempio, è una delle migliori università d'Europa. Rimane il problema della difficoltà di risorse e anche di incentivi nell'università italiana, che non è un problema solo degli economisti, è un problema in generale dell'università. Certo, è un problema dell'università, però comunque se guardiamo al passato, economisti italiani tipo Piero Sgaffa o sì. Modigliani, che ha vinto il premio Nobel, ma l'hanno vinto, Modigliani l'ha vinto per gli studi che ha fatto negli Stati Uniti. Potrà mai un italiano vincere un premio Nobel per l'economia? Ma io credo di sì, però non mi stupirei se fosse di nuovo qualcuno che lavora negli Stati Uniti, dato che c'è questa capacità organizzativa comunque delle università americane, che, e anche di alcune università europee, ma soprattutto delle università americane, che domina l'attuale situazione istituzionale dell'università in Italia. Anche forse perché c'è una logica per cui ogni fenomeno sociale può essere ricondotto a una visione economica, quasi a un'equazione, quasi a una logica matematica. In Italia invece siamo molto più creativi, da un certo senso, che non si pensa che tutto possa essere concepito, non ridotto, forse è la parola sbagliata, ma spiegato con un'equazione. Beh, ovviamente l'uso dei metodi matematici ci ha permesso di fare moltissimo progresso nel capire i fenomeni economici e sociali, ma ci sono anche molti limiti, ma in qualche modo ci permette di essere espliciti su quali siano i limiti. Il discorso fino a se stesso, con molte parole, non è sempre coerente, ma non si capisce esattamente perché, e questo è più facile in qualche modo. C'è un po' la logica del dibattito televisivo, in cui si può dire tutto il contrario di tutto, i dati vengono dati anche se non sempre sono veri e così via. Questo è un po' l'aspetto deteriore, se vogliamo. Sì, ecco, un'economia un po' creativa, in un certo senso. Sì. Creativa nel senso che si inventano un po' di cose. I fatti sono, sì, non sempre sono fatti, così. Sono fatti. Si basano più sulle prospettive, e le prospettive diventano realtà. Sì, però questo non credo che sia un problema degli economisti italiani, ci sono veramente bravissimi economisti in molte università in Italia. Ecco, cosa la tia come economista? Abbiamo parlato appunto dei suoi studi sulla famiglia, sugli stili di vita, sugli stili educativi, di cosa vorrebbe occuparsi o di cosa si occuperà nei prossimi anni? Ma io lavoro molto in Cina adesso, l'ho fatto già per diversi anni, quindi domani l'altro volerò a Hong Kong e starò 2 settimane in Cina, lo faccio regolarmente, è un mondo affascinante che ha tante cose diverse da come siamo abituati noi, e cercare di capire che cosa stia succedendo in un'economia dove vivono 1.340 milioni di persone, è una cosa veramente affascinante. Allora, in mezzo minuto ci dica che cosa sta succedendo in Cina, è un paese che sta veramente rallentando oppure sta rallentando ma continuando ad andare veloce comunque? Sta rallentando e sta continuando ad andare veloce, ora si tratta di capire se questo rallentamento precede un ulteriore rallentamento o meno. Io credo che ci siano alcune tensioni importanti, alcune riforme che devono fare, ma non credo al collasso della Cina nei prossimi 2 anni, come molti dicono invece. Certo, c'è un rallentamento di fondo che nasce un po' anche dal fatto che si è corso troppo, ma Corso molto e tutte le economie che si sviluppano, un'economia che cresce al 7 o al 6% annuo, è un'economia che cresce moltissimo. E quindi è un'economia che sta ancora crescendo e in cui le disuguaglianze stanno aumentando o stanno riducendo? Ma non è chiaro, io credo che un po' si stanno riducendo perché i salari reali stanno aumentando, anche se i fatti sono ancora un po' oscuri rispetto alle dinamiche degli ultimi anni. Vedremo allora nei prossimi anni cosa succederà in Cina. Buon viaggio in Cina, professor Fabrizio Zilibotti, grazie per essere stato con noi questa sera. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.